Ba ba ba ba ba ba la mulaga. Ba ba ba ba ba ba la mulaga. Si fa la sega sulla spiaggia mentre la mamma fa la bala. Si fa la sega sulla spiaggia mentre la mamma fa la bala. Ba ba ba ba ba ba la mulaga. Ba ba ba ba ba ba la mulaga. Prima del giorno se mi linna la mulaga si balina. Prima del giovane penna la mulaga si balina. Si va l'ugianna la mugianna dopo le mangiudana. Si va l'ugianna la mugianna mentre le mani da mugiana. Va va va va va va la mulaga. Va va va va va va la mulaga. Si fa la sega sulla spiaggia mentre la mamma fa le balle. Si fa la sega sulla spiaggia mentre la mamma fa le balle. Va va va va va va la mulaga. Va va va va va va la mulaga.